con Blas Roca Rei, che cura l'Iliade di Alessandro Baricco al Teatro Arcobaleno a Roma dal 25 ottobre fino al 28. Blas, ben trovato. Ciao, buonasera a tutti. Beh, Raccontaci un po', intanto, come lo descriveresti? lo descriverei come uno spettacolo imperdibile. Allora, questo è uno spettacolo a cui tengo tanto, tanto, tanto. Sono 10 anni che lo porto in giro per tutta Italia. Siamo stati nei teatri greci e romani più belli, da Ascoli Piceno a Tindari in Sicilia, alla Valle dei Templi di Agrigento, il Teatro Romano di Nora vicino Cagliari sul mare, delle location meravigliose. L'abbiamo fatto anche al Chiuso, l'abbiamo fatto anche a Roma 6-7 anni fa, e adesso torniamo in quella che è la mia città per 4 giorni, in cui lo facciamo una mattina per le scuole, giovedì, venerdì e sabato la sera e domenica pomeriggio. È un'idea particolare. Io ci tengo tanto perché l'azzardo di Baricco è stato quello di eliminare gli dèi e lasciare questa storia di uomini e di donne che si accapigliano, si combattono, si odiano, si amano, si uccidono. In una storia di passione molto molto avvincente, il tutto condito da due voci, maschile e femminile, l'altra la voce femminile è Monica Rogledi, che interpretano, e l'altra sono io ovviamente, tutti i monologhi dei personaggi principali, che però messi uno dopo l'altro seguono perfettamente la cronologia della storia di Iliade. In scena ci sono tre musicisti bravissimi, che sono Pino Cangialosi, che è l'autore anche delle musiche, che suona percussioni e pianoforte, Fabio Battistelli al clarinetto e Marzouk Mejri, che è un cantante tunisino e percussionista meraviglioso, che dà un'atmosfera mediorientale assolutamente perfetta per questo spettacolo. Dicevi 10 anni, com'era partita l'idea? Guarda, l'idea è buffo perché partì su commissione. C'era un festival di letteratura a Lecce che ci chiese di fare uno spettacolo su come tema generale il mito. E come spesso succede in casi della vita, io in quei giorni proprio stavo leggendo personalmente, per me, per mia goduria, l'Iliade di Alessandro Baricco. E ovviamente il passo è stato più che breve, ho detto ce l'ho, e questo è fatta, lo facciamo sicuramente. E l'ho fatto lì, a una replica solamente lì, e ci è talmente tanto piaciuto che, tra l'altro, non c'era ancora Marzouk Mejri, c'erano solamente due musicisti. E piano piano l'abbiamo allargato. E adesso è andata come una lettura, adesso più o meno la metà dello spettacolo noi la facciamo a memoria perché è più bello, perché è stato poi ci è entrato dentro proprio sotto pelle questa cosa a forza di farla, e quindi è stato molto semplice alla fine fare questo balzo e lasciare a metà il leggio e a metà a memoria, perché è un racconto, e quindi essendo epica il racconto funziona sia leggendolo che raccontandolo proprio in maniera più interpretativa, diciamo. Cosa avevi apprezzato maggiormente delle parole di Baricco? Hai detto già dell'eliminazione degli dèi, e cos'altro è entrato in gioco? Beh, sicuramente il modo di parlare. Baricco ha una scrittura molto colta, ma anche molto immediata. Noi tutti abbiamo studiato a scuola l'Iliade, ma quello che ci dicono gli studenti quando vengono è che è completamente scrostato da tutte quelle sovrastrutture un po' scolastiche, che per carità sono meravigliose da studiare, sono di Omero, sono i versi, sono quello che è l'Iliade, ma questa volta qui c'è una zampata maggiore, c'è un linguaggio più appassionato, più immediato, più vero, più odierno, anche se non è moderno, ma è odierno, e quindi risulta l'impatto molto molto forte. Continuerà poi dopo Roma il suo viaggio? E per adesso l'inverno no, perché io grazie a Dio sono pieno di lavoro, io farò 5 spettacoli a Roma quest'anno, quindi ci risentiremo immagino, ma lo spettacolo è sempre lì, è sempre ai blocchi di partenza, e l'estate noi lo facciamo ogni anno, perché per fortuna le location italiane sono quasi sterminate, quindi ogni anno almeno 4, 5, 6 repliche le facciamo sempre. Quest'anno per esempio siamo stati in un teatro bellissimo greco nella Locride, Bortigliola, che io non conoscevo, l'ho scoperto facendo Medea l'anno prima, e gli ho proposto l'Iliade e l'hanno presa subito, per cui è veramente pieno di rovine, di ruderi, di zone archeologiche, di teatri. È uno spettacolo che si può fare dovunque perché è una parola vincente, dove l'appoggi si erge in maniera assolutamente potente. Dato che insomma stiamo parlando di un decennio, che bilancio ne fai di questa avventura teatrale con Baricco? Beh, è un'ottima esperienza, è una È uno spettacolo, questo succede un po' con tutti gli spettacoli, mi sono accorto. Quando tu li lasci e li riprendi, anche se non pensi più assolutamente a quello spettacolo lì, quello spettacolo ti lavora dentro, cammina. Non so dirti come, quando, non so dirti neanche perché, ma so che cammina. E quindi quando lo vai a riprendere, hai sempre uno scalino in più raggiunto, sei sempre salito un po' di più nell'interpretazione. Ti dico, lo spettacolo ti cammina dentro. E quando poi lo riesci a riprendere, ti accorgi che è cambiato dentro di te, che è migliorato. Ed è abbastanza bizzarro e anche un po' impressionante, perché dici, vabbè, ma come mai? È così. E questo spettacolo che lo faccio da 10 anni, sicuramente più di qualunque altro, io non ho mai fatto uno spettacolo per 10 anni. E quindi questo è, la sua unicità è sicuramente questa. Bene. Allora, ricordiamo l'appuntamento al Teatro Arcobaleno a Roma con l'Iliade di Alessandro Baricco. Un saluto e un ringraziamento a Blas Rocca Rei che, oltre a essere in scena, ha curato anche la messa in scena. Dal 25 al 28 ottobre. Blas, è sempre un piacere. Un abbraccio, un in bocca al L'ho lupo. nominato Monica Rocledi, che è l'attrice. Sì, l'ho nominata naturalmente. Sì. Nomina tutti a questo punto. No, i musicisti li ho già detti tutti e tre. Ok. Mancava Monica Rocledi, che è la voce femminile. Un abbraccio, ciao! Ciao, grazie.